Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati. Spero. Come è andata? Come è andata sotto Natale? Bene, fantastico, ho mangiato molto bene, mi sono mosso bene. Non sono al recupero. Non come te. Molto, ho mangiato. Tu sei al recupero, vero? Sì, ho mangiato molto. Okay, bene, sì, ho mangiato molto, ne sono fiero. Ne sono orgoglioso, tanto mangio molto anche durante l'anno. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri SOS Oldani. Ovviamente 02 30 22 41 84 per la segreteria telefonica. Oggi parliamo di legumi. Perché ci sono le lenticchie domani notte da mangiare? Assolutamente sì, lenticchie in quel caso abbinate col tuo bel cotechino, però ricordiamo che il legume in generale è un sostituto tranquillo e buono della carne. È una meraviglia il legume. E oggi abbiamo un grande ospite, grande cuoco, lo vuoi dire tu? Beh sì. Perché di quelli che, capito, perché pure quelli magri, diciamo, pure quelli smilzi sono simpatici, però Antonino Cannavacciuolo, come va? Ciao Antonino, buongiorno. Ciao, domanda, qua il tema filosofico fra me e Oldani è: bisogna nella vita mangiare tanto o mangiare poco? Abbastanza, quanto basta. La domanda è quanto basta? No, io dico, per non sbagliare, parto la mattina verso le 9 fino alle 10-11, mangio sempre, così non sbaglio. Nel dubbio. Senti, Vico Equense, che è il luogo dal quale sei nato, che è una delle capitali, lo diciamo, della gastronomia italiana. Una capitale al nord è certamente la città di Alba. Vico Equense è la città dove è nata la pizza a metro, se non sbaglio, no? Sì, è una cosa bellissima, perché oggi si parla molto di pizza, pizzaioli, pizzerie, ma qua stiamo parlando di una storia, no? Tantissimi anni che sta pizza a metro se ne sta facendo parlare, no? Se ne parla ancora tutt'oggi qua a nord, mi dicono pizza a metro, e questa è una cosa bellissima. Mi ricordo poi che sono nato veramente a 50 metri dalla pizza a metro, cioè andavo là, aspettavo le prime pizze quando si bucavano le prime, no? Il forno freddo, così, e noi ragazzini mangiavamo questa pizza, cioè ci sono proprio cresciuto con la pizza a metro. Torino, vuoi dare una differenza tra la pizza al metro vera, quella che era a 2 metri da casa tua, quella che si fa oggi, e poi la pizza napoletana? Due nozioni, due segreti che fanno la differenza. Vabbè, ma noi, cioè la nostra è un po' più proprio quella della pizza a mezzo, è un po' più altina, no? Certo. Invece a Napoli fanno più fine, poi noi eravamo abituati a mangiarla proprio a pizza a metro, un metro di pizza, invece a Napoli facevano a piatto, no? Poi secondo me la differenza la fa una buona lievitazione, ma è quello che pure ci metti sopra, perché tanti di loro dicono pomodoro e mozzarella, e da dire in pomodoro e mozzarella c'è un mondo che tu sai benissimo, no? Sì, assolutamente. Per esempio, perché io qua, ti dico la verità, io qua non c'ho il forno a legno nella mia cucina, ogni tanto metto a impastare la pizza e uso i pelati di mia mamma, no? Proprio che fanno a mano, sul fuoco a legno, eccetera, eccetera. Uso una mozzarella, un fior di latte veramente fantastico, e tu alla fine la senti, no? Il sapore della pizza, capito? Oggi quella è, cioè dobbiamo vedere cosa mettiamo sopra questa pizza, perché tanti mettono proprio la schifezza dell'ingrediente sulla pizza, pure per abbattere i costi, eccetera, eccetera. Certo. Lo sappiamo bene. La materia prima fa tutta la differenza del mondo. Senti, sui legumi, che mi dite? Io in questo momento sono uno degli uomini più fortunati del mondo, ho due chef straordinari. I legumi per noi è veramente una grandissima tradizione. Se tu pensi a farsi a fagiolo con le cozze, a Napoli è festa, no? Cotti nella pignata, con la pasta mischiata, pasta che è la pasta dei poveri, la pasta dove chi aveva pochi soldi andava nel pastificio a raccogliere la pasta rotta, scarti, no? E veniva veramente la pasta e fagiolo come Dio comanda. Qua tutti la fanno con le cozze. A me preferisco la cotica di maiale, ecco. Quando c'è un po' di cotica dentro. c'era il segreto di mia nonna, che buttava dentro la crosta del parmigiano, no? Che pure alla fine, quando la tiravi su e te la mangiavi, sono tutti quei piccoli segreti. Poi c'era un altro segreto sui legumi, che era bellissimo: facevano in ultimo un soffritto, no? Un po' di olio, facevano soffriggio, un po' di prezzemolo, un po' di peperoncino, un po' di aglio, e mettevano sopra alla fine alla penna dei fagioli, senza girarli. Poi tu quando andavi a prendere con il mestolo, quest'olio aromatizzato di aglio, rosmarino, peperoncino si fondeva nella pasta, era buonissimo. Per dire che mi viene fame. Anche e perché... poi la cosa più bella è che il nord c'ha il riso a salto, da noi facevamo la pasta e fagioli a salto. Quella avanzata, sì. Vogliamo ricordare cos'è il riso al salto, Oldani? Beh, è il riso che normalmente si rimane perché ne cuoci un po' di più e il giorno dopo, la sera stessa, quando è freddo, lo appiattisci in una padella, possibilmente anche antiaderente, che è un po' più veloce, un po' più facile, e fai la tua crosta. E loro a Napoli lo fanno con questa pasta e fagioli. E viene bello croccantino, no? Io sai che facevo invece? Un po' di olio, mettevo del pane, sempre da fermo, no? Che facevo rosolare un po', e poi ci schiacciavo questa pasta sopra e poi la giravo. Una poesia. Devo dire veramente. Che in uno dei tuoi ristoranti dove ho mangiato ultimamente ho mangiato questi, me li ricordo ancora adesso, questi involtini di cotenna con questa gratinatura sopra, che è una cosa fantastica. Se ti dicessi invece chicherchie, non so se la pronuncia è giusta. Chicherchie è un altro legume molto importante. Dicono che, sai, tutti i legumi alla fine fanno fare aria, no? Nello stomaco. Fermentazioni. Invece la chicherchia non lo fa fare la fermentazione, cioè fermenta di meno, e poi alla fine secondo me è una via di mezzo fra un cecio, una fava, cioè è un po' la chicherchia, è quella che il jolly, che ma a gusto prende un po' del pisello, prende un po' di tutti, no? Poi pure là, solo c'ha questa pellicina un po' più spessa del legume normale, allora devi stare là a toglierla piano piano, li mette a bagno piano piano. E più che la pasta, là si fanno delle belle pellutate con crostacei, pesce. Ti torno, io feci una stagione a Napoli, a Capri, a Napoli, al Cusisana, e tu mi ricordo l'anno dopo, si parla di un bel po' di anni fa, c'era questa signora Carolina che era la persona che cucinava per i ragazzi, ti ricordi anche tu, e faceva questi ravioli di cicerchia, che poi mi sono ripreso, faceva una purea di cicerchia abbastanza densa. È un legume poco conosciuto, comunque non sono pochi, ma è buono. Però calcola che io nel mio ristorante qui a Milano uno dei pochi legumi che uso è la cicerchia. Quindi onore a Capri, questo è il nostro percorso, no? Quando fai un determinato percorso, alla fine nel nostro bagaglio tu ci hai buttato dentro le cicerchie, mi stannavo. Poi ti dico un'altra cosa, le cicerchie le davano agli animali, no? Era un cibo per animali, perciò l'uomo lo vede più come un qualcosa che si dà agli animali, si dà poco apprezzato, cavalli, vero? Poco apprezzato, ma secondo me è buono, se è cotto bene, aromatizzato bene con delle erbette come timo, maggiorana, ci stanno bene. Una marcia in più. Vi fermo un attimo perché c'è il traffico, ma ripartiamo da qui, dalle cicerchie e dalle lenticchie, anche perché domani sera c'è Cotechino e Lenticchie. Non scherziamo. No, mamma, basta con questi open day. Decidi tu che scuola devo fare. Io non lo so cosa mi piace studiare, ok? E invece è bene che i nostri ragazzi lo scoprano cosa piace loro studiare, perché è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore. Come districarsi allora fra licei, tecnici e professionali, fra open day, consigli orientativi e l'immancabile passaparola fra genitori sui WhatsApp di classe? Sono Maria Piera Ceci e oggi alle 11 vi darò una mano insieme ad esperti, presidi ed insegnanti. Nello speciale Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sempre su Radio 24. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... Mangia come parli, mangia come parli. Vi ricordo che dopo avremo gli SOS Soldani 349-238-6666 e sono qui oggi veramente un uomo fortunato, perché com'era quella vecchia pubblicità, due gusti is meglio che one, oggi ho due chef che è meglio che one, con Cannavacciuolo e Oldani. Allora, domani sera ci sarà quel momento lì dopo il festeggiamento verso l'una di notte in cui andremo con Cotechino e Lenticchie, si può soprattutto fare, tante, no? Lenticchie, perché immaginiamo tanti soldi, sì, invece tu andrai con tanto Cotechino. Beh, no, a me piacciono molto tutte e due, però il Cotechino mi piace, il Cotechino è buono. Che no? Cotechino consigli, Tonino, se ce n'è uno napoletano, che può essere anche un sanguinaccio, uno, non so, di dove? No, di solito prendo dall'Emilia, c'è un piccolo produttore che me ne manda, e paesano, dai. Quindi sempre più con la cotenne e meno più... carne. No, io uso un po' più carne e meno cotenna. La cotenna me lo faccio per me, capito? Quello è mio, personalizzato. Mi mangio... Mi piace mangiare la testa dove ci sono le unghie, no? Dove c'è la zampetta proprio. Ah, invece, zampone, sì, la farcia, sì. Sì, la parte finale, invece il 31 diamo quella tipo a salame, no? Quella senza cotenna, solo con la carne. Buona. C'è qualche consiglio, qualcosa, perché apparentemente è una delle cose più facili del mondo, ma forse non lo è, per fare un buon lenticchie codeghino? La selezione, prima cosa la selezione, il gusto personale, come diceva Antonio, io sono più per quello di Cremona, quello o mantovano, anche direi quello con più cotenna dentro che si scioglie in bocca, che è una libidine unica. Poi quello milanese, invece noi milanesi secondo me dobbiamo ancora imparare un po' dei mantovani, dove mettiamo più carne di maiale, e nelle mie zone alcuni mettono dei piccoli pezzettini anche di manzo. Senti, la voglio fare un gioco, mi è venuto adesso, quindi è probabile che sia una gran cazzata, ma ormai la faccio. Allora, immaginiamo che siate castaway, come in quel film, su un'isola deserta, con vi do tre ingredienti da portare. No, io Aldani non lo voglio, è troppo magro. Perché no. Ma ognuno c'ha la sua isola. Io nella mia ci metto. Okay, da solo allora. Tu c'hai la tua, lui c'ha la sua, io c'ho la mia. Okay. Allora dai, i tre. Forse il pallone metto un bel cocome. Disegno un cocome. Allora dai, Aldani, i tuoi tre ingredienti. I miei tre ingredienti da portare: sicuramente un po' di pesce, tutte le erbe e le verdure possibili. E poi, se potessi portare un frigorifero, un congelatore, tra i 7 kg di gelato a stracciatella. Quindi pesce, verdure e gelato, va bene. Cannavacciuolo? Io? Un accentino, perché devo accendere il fuoco. Vabbè. Una canna da pesca. Eccola. Perché il pesce finisce, Davide, io l'ho già pescato, capito? Un bel chilo di pasta, capito? Tanta pasta, capito? E tu adesso di la tua. No, io pasta, mozzarella e pomodoro. Basta, queste tre cose. Beh, ma per quanti giorni? Finisci, devi portare qualcosa per pescare. No, ho capito. Io vado sotto perché sto sotto un quarto d'ora sotto l'acqua, sì, e pesco con le mani. Un quarto d'ora, che ti è andato uno pulpo. Ma vi è piaciuto troppo sto giochino? Adesso non è che io volevo sapere i vostri tre ingredienti preferiti, non è che adesso esattamente c'è l'isola Lesia, non voglio neanche sapere da chi è popolata quest'isola. Vabbè, comunque, insomma, perché una delle tue passioni è la pesca. Dove peschi? Dove c'è acqua e pesce. Sì, quindi ovunque. Anche sul lago tu ti operi anche sul lago, vero? Ovunque. Stamattina alle 5 stavo a pesca, io non ero qua. Tra l'altro immagino la temperaturina, no? Leggera. Era fredda, era meno 4, meno 5. Beh, vabbè, comunque è piacevole, meno 4, meno 5. Quando mi sono sentito con Davide stavo tornando, capito? Dani andava a fare jogging, io dormivo invece fino alle 10 stamattina. Programmi futuri, Tonino, dai, un'anteprima o qualcosa, visto che insomma adesso credo inizia la MasterChef. Sicuramente... rifare sempre qualche lavoretto sia nelle mie aziende sia a livello piatti, migliorare sempre e poi dare uno sguardo a una prossima apertura. Ah. Luogo del mondo? Italia? Sì. Italia. Beh, uno parte fra poco, quello per me non è nemmeno un'attività, perché alla fine sarà una casa padronale che sto mettendo a posto, devo fare un piccolo relè a Bighequense. E quella è una cosa mia personale, un gioco, perciò non la considero nemmeno un'azienda, no? E invece poi sto dando uno sguardo a Milano. Ah, fantastico. Dal 21 fra l'altro in onda MasterChef, insomma, voglio dire. Senti, ma ci fai la tua ricetta del cuore? Dai, fammi un gingolino, dai. La ricetta del cuore è ragù napoletano. Mio, Com'è quel verbo di Luca? Pippiare. Per i legumi. Pippitiare. Che cos'è questo pippitiamento? Che cos'è? È quando arriva leggermente il bollore del prodotto, no? Che ci arriva a fatica. Di solito comincia a bollire a 90-100 gradi, sugli 85 comincia a vedere le prime bolle. E dobbiamo, cioè, quelle erano, oggi vengono sono, vanno molto di moda le cotture 80 gradi, 70 gradi. Bassa temperatura. Una volta già si faceva senza dichiararlo, perché alla fine si partiva a centrare della stufa che c'erano 8 gradi, man mano venivano all'esterno della stufa dove andavano a trovare gli 70, i 60, gli 80 gradi che oggi vanno di moda. E una volta si facevano e non si sapeva nemmeno. Certo. Perciò, ancora questo significa che non vendiamo mai niente. Però facciamo search and reapply, come dicono a Vico Quenza. Va bene, maestro, grazie. Ciao, grazie di cuore, buona giornata, tanti auguri. Grazie. Il prossimo anno, Spaccate il prossimo anno. Noi ci proviamo. In ogni caso, alla fine andremo a cena e sarà un successo. C'è un uomo che ci parla adesso della grandezza dal punto di vista nutrizionale dei legumi, perché c'è quella vecchia frase, insomma, dei legumi che sono un po' la carne dei poveri, ma esatto, in realtà possono avere una qualità straordinaria, hanno delle proprietà nutritive assimilabili a quelle delle proteine. E allora diamo il benvenuto al Nicola Sorrentino, nostro amico. Ciao Nicola, buongiorno a tutti. Come sono questi legumi? Fanno bene? Avete detto la verità, i legumi sono soprannominati la carne dei poveri. Perché? Perché non hanno niente da invidiare alla carne, in quanto apportano quantità proteiche di alto valore biologico e apportano anche una quantità sufficiente di aminoacidi essenziali. Ma questo soprattutto se noi li abbiniamo anche ai cereali, alla pasta, al farro, all'orzo. Infatti per il nostro organismo fanno benissimo. E poi diciamolo chiaramente, cosa c'è? Di cosa non c'è di più buono di una pasta e fagioli, pasta e lenticchie, pasta e ceci, mamma mia. Quindi il loro grande apporto proteico lo assimila veramente a quello di qualsiasi altre fonti di origine animale. Si può sostituire. Loro apportano anche tante fibre, apportano anche una buona quota, poca ma ci sono, di carboidrati e anche di grassi, però questi sono grassi benefici, quelli che prevengono le malattie cardiovascolari. E poi dobbiamo dire una cosa importante: noi non valutiamo mai un legume forse ancora non molto conosciuto in Italia, che è la soia. Fate conto che la soia anzitutto è un legume, e a differenza dei ceci, fagioli e tutti gli altri legumi che apportano sul peso secco solo il 20% di proteine, la soia ne apporta addirittura il 35%, che tantissimo. È veramente, la soia come legume non ha niente da invidiare a nessun'altra fonte di origine animale. Se ti dicessi, per una corretta dieta, per qualcuno che magari per una questione personale non mangia carne per rispetto degli animali o per quello che è, quindi un vegano, cosa dici, l'apporto calorico o le quantità giornaliere del legume in generale, cosa possono essere abbinate a un carboidrato? Allora, noi non dimentichiamo che il vegano e anche il vegetariano d'altronde non mangia nessun tipo di alimento di origine animale, per cui ogni giorno mangia i legumi. Dobbiamo dire semmai quelle poche controindicazioni che ci sono, per esempio le alte cotture, cioè le cotture ad alta temperatura li impoverisce di alcuni nutrienti. Molte volte chi ne mangia tantissimo dice: non li ho digeriti. Può provocare, lo sappiamo tutti, i legumi possono provocare un po' di gas intestinali, esatto, e questo noi lo possiamo evitare, per esempio preparandoli con passati o in purè. Molte volte non lo fanno. I legumi a volte contengono dei fitati che interferiscono con l'assorbimento di altri nutrienti, però diciamolo chiaramente, chi non volesse mangiare nessun alimento di origine animale, le proteine dei legumi hanno le stesse proprietà, quindi oltretutto risparmiano, se dobbiamo essere sinceri. Esatto, un'altra cosa che è molto di moda nella cucina in questi ultimi 10 anni più o meno sono i germogli, i vari germogli e i fiori eduli. Allora, i germogli di legumi hanno lo stesso apporto calorico, è diverso, e perché? Altra cosa che si può dire che sia un vero alimento medicamentoso sono gli alimenti germogliati, ma non ci sono solamente quelli dei legumi, chiaro. Anche i germogli di erba medica, però sono famosi quelli di piselli, di lenticchie, hanno meno calorie, come per esempio i piselli e le fave fresche hanno meno della metà delle calorie di quelli secchi, e lo stesso i germogli, e sono veramente buoni fatti in insalata, scottati e poi messi in insalata, sono dei veri, ripeto, alimenti medicamentosi. Assolutamente. Senti, i piatti completi, perché penso per esempio al riso e piselli o pasta e ceci, pasta e fagioli, sono ti piacciono dal punto di vista ovviamente nutritivo, nutrizionale, sono una... A me piacciono sia dal punto di vista gastronomico sia dal punto di vista nutrizionale. Una pasta o un qualsiasi cereale, che può essere anche il farro, l'orzo o qualsiasi tipo di queste nuove farine tipo kamut, cereali, kamut, bulgur e così via, insieme ai cereali ne fanno un piatto completissimo, soprattutto se ci aggiungiamo dell'olio extravergine in oliva, meglio ancora se a crudo. Ecco, l'ultima domanda, se ti dicessimo invece che lenticchie e cotechino, diamo una quantità al mio collega e amico Pier per, insomma, per quello che accadrà. Allora, vabbè, un chilo di cotechino a persona e... No, giusto. Io dico che non c'è niente che fa male, la quantità che fa sì che un determinato alimento diventi dannoso per il nostro organismo. Poi se ci riferiamo a fine anno, cotechino e lenticchie, ma facciamolo tranquillamente, non è quella fettina di cotechino che ci possa far male, e in ogni caso, anche se quella sera ne mangiamo due fettine o tre fettine, non succede assolutamente niente. Perfetto, io concordo come al solito con queste belle notizie. Piero un po' meno, perché vedo che sta un po'... No, sto riflettendo sulla mia vita, perché del resto me lo dice Oldani, poi me lo dice il nutrizionista, insomma mi stare facendo un bel pacchettino. Ma sotto le vacanze di Natale per ora non cambia niente, da gennaio ci penseremo. Grazie a Nicola Sorrentino, grazie, Nicola. E vive i legumi. Grazie Nicola, grazie. Adesso Nicola, fra un attimo abbiamo un grande ospite che è Carlo Conti e parleremo di alcune specialità toscane, perché fantastico. Penso all'uccelletto, al fiasco. Fra poco torniamo. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh, sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Mangia come parli. Che poi di fondo io quando penso ai legumi penso ai fagioli, che mi piacciono da impazzire. C'era Tonino Cereso, centrocampista della Roma, della Samp, che diceva che il calcio è gioia, diceva il calcio è come riso e fagioli, la famosa fagiolata alla brasiliana. Sì. Ma penso quindi anche a Firenze, e a Firenze non posso far altro che pensare a Carlo Conti. Come stai? Buongiorno. Bene, buongiorno Carlo. Con i preparativi di Oldani, mitici, con i preparativi. Ascolto sempre. Grazie, con i preparativi del Capodanno. Fra poche ore, quindi sì, con le lenticchie, sì. Però partiamo dal fagiolo, dalla filosofia fiorentina. Ecco, fagiolo all'uccelletto. Fiasco e uccelletto. Ti prego, sì. Carlo, accontentalo con un soffritto, anche... perché sennò non lo molla più. Mi piacciono anche i fagioli zolfini cotti dentro il fiasco, che sono molto, molto buoni e delicati. È un altro modo di cucinare dei fagioli tipici delle nostre zone, o comunque di cucinarli nelle nostre zone. Come in altre parti d'Italia sono particolarmente buoni, però il fagiolo all'uccelletto c'è sempre il suo perché, c'è sempre il suo fascino, sì, tantissima, sì. Tantissima roba. Poi c'è quello di Pietrasanta, no? C'è quella, sì, ci sono quello schiacciato. Non sono un grande esperto. Cannellini. Mi piace più mangiarli. Ecco, perfetto. Quindi dai cannellini ai borlotti ai lamon, sono tutti fagioli pronti, anzi in questa tipologia di cottura l'uccelletto si usa proprio una pentola in terracotta dove vengono precotti, poi viene fatto il soffritto in questa pentola, aggiunto del pomodoro, del concentrato di pomodoro, e poi cotti come dicevamo poco fa con Tonino in maniera, come diceva il napoletano? Pippitare. Tonino era Cannavacciuolo che era qualche minuto fa con noi. Tu sei fiorentino nella cucina, cioè sei proprio di rito ortodosso della ciccia? Anche in questo sono fiorentino centrico, toscano centrico, cioè bevo quando posso il vino toscano, l'olio toscano, i piatti tipici toscani. Io adoro molto il pesce, quindi sono più portato per il cacciucco o per la trabaccolara di Areggina o insomma per le cose tipiche delle mie terre. Però, abbiamo anche degli amici in comune all'Argentario che fanno delle cose meravigliose. Esatto, no? Esatto. Quindi insomma mi piace molto il pesce e cucinarlo alla nostra maniera. però ovviamente mi piace tutta la cucina italiana quando è ben fatta. Anche nel bere preferisco un buon vino toscano, però sapendo la bontà anche di altre regioni, specialmente se sono fuori, mi piace assaggiare i vini delle altre regioni, poco ma buoni. Ecco, preferisco avere un po' meno ma cose buone. Senti, ma in quell'allegra banda che insomma Pieraccioni, Baldini, Gianfranco Monti, che, insomma, amici che hanno fatto la storia, Panariello ovviamente, chi è quello che mangia di più? Quello che mangia, ognuno ha delle caratteristiche diverse. Leonardo è un'ottima forchetta, però soprattutto gli piace mangiare, non ha quella finezza nel gusto. Delle volte siamo al ristorante, ma è buono, mi chiede anche il pesce, sapendo che io lui lo mangia, no, va bene, chiede, ma è buono. Com'è? Mi guarda, ma com'è? L'assaggiatore. Specialmente sul pesce io un po' da buon vecchio pescatore un pochino ci capisco. Giorgio mangia, ma si controlla anche perché è attento al peso. Anch'io mi piace mangiare, mi piace mangiare bene, ma senza esagerare, stando sempre attento. Ecco, insomma, devo dire, il Monti, Gianfranco, è quello che non si preoccupa di niente, infatti la sua pancia si vede e lo dimostra. Gianfranco Monti, insomma, ci dà dentro in maniera... Oggi giornata dei pescatori, perché pure Cannavacciuolo ci ha detto che stamattina pescava alle 4:30 di mattina, alle 5. Che meraviglia. A meno 5 gradi, è una filosofia. Sì, ma per me è una passione che ho avuto sempre fin da piccolino, perché mi piace il contatto con il mare, ovviamente mi piace il sole, si capisce, no? Dall'abbronzatura, e quindi ogni attimo è buono, è una scusa, è buona per stare in mezzo, dove è possibile, anche al mare. Senti, ma sei più abbronzato tu o Graziano Cesari? Questo è il grande tema che divide l'Italia, perché un giorno dobbiamo organizzarlo, confronto all'americana. Pelle contro pelle. Straordinario. Senti, una dieta prima delle sue performance. Prima di Sanremo, e questo è molto interessante. Cioè, Sanremo è anche insomma, quanti ne hai fatti? Uno meglio dell'altro? Ne ho fatti tre. Spettacolari, divertenti, e poi c'erano dei posticini lì dove ci sono quei gamberoni meravigliosi rossi di Sanremo che sono la fine del perché mondo. Perché la giornata sanremese, ospedaletti che mi facevo delle mangiate strepitose prima di andare, il crudo anche buono, prima di andare, no, non certo prima di andare in onda. Volevo capire questo appunto, cioè, perché è anche un'attività fisica, insomma, presentare soprattutto, a parte lo stress dietro dello sportivo. Mi conosci, è un po' sono come te, mi diverto, andare in onda è un divertimento, quindi non ho il senso della tensione o chissà che vado a fare, ci vado molto rilassato e con il divertimento di cercare di regalare dei momenti divertenti al pubblico. Per me questa è la cosa più importante, quindi è un momento di gioia, però ecco, non mi voglio appesantire per non mettermi a sbadigliare. La cena dopo, no? Sì, ora evito, un tempo andavo a cena dopo, ora evito anche quella perché insomma, vista l'età, insomma, si comincia a stare un po' a controllarci e la cena in ore tarde non fa certo molto bene. E allora mangio qualche cosina prima, per esempio quando abbiamo fatto il tour Conti, Pieraccioni e Panariello, prima dello spettacolo che iniziava alle 9, verso le 7:30 fingevamo di essere degli atleti e ci fangevamo lo spaghettino o la pasta asciuttina, capito? Le penne, pomodoro e un po' di parmigiano, convincendoci quasi di essere degli atleti. Che serviva, perché dobbiamo macinare chilometri in campo. Certo. No, mi sembra. E allora, prima dello spettacolo avevamo questo rito, avevamo preso questa abitudine di mangiare lo spaghettino. Senti, al pomodoro. Questi chef funzionano in televisione? Direi di sì, occhio e croce. Direi, no? Di sì, a qualsiasi ora. Noi facciamo, Leonardo nello spettacolo fa anche una battuta, che c'è la mamma di Leonardo che passa da un canale all'altro a guardare chef, a vedere come si fa da mangiare. Poi va Leonardo a casa, cosa mai fatto? I sofficini. Dice, ma come i sofficini? Tutte le trasmissioni. Sono in televisione a guardare come si fa da mangiare, non ho avuto tempo. Certo. Sì, ormai sono dei grandi personaggi, si meritano la nostra attenzione, perché sono uno delle eccellenze del nostro paese, se vuoi, no? Perché comunque rappresentano un volano importante per certi settori dell'economia. Economia, artigianato anche italiano. La cucina è artigianato. Io spesso nel mio piccolo mi diverto, io mi definisco un artigiano della televisione, perché mi piace fare le cose seguendo il dettaglio, il particolare, seguendo le piccole e grandi cose che fanno per una trasmissione televisiva. Però ecco, l'artigianato impanato credo sia, e in cucina lo dimostrano questi chef, la cosa più importante, una delle caratteristiche importanti del nostro paese. E poi tu hai fatto una cosa, io anch'io nel mio piccolissimo mi sento simile, perché tu avevi un lavoro in banca, se non sbaglio, sì, e sì, l'hai sì, mollato sì, per fare la radio. Io sì, avevo un lavoro in una multinazionale, pensa alla fine, fa, no? Tanti anni fa, andando in ufficio alle 7:30 del mattino, perché si entrava alle 8, sui viali di Firenze, ero in coda, ma ti parlo di 40 anni fa, no, di più, perché era nell'81, quindi 82, giù di lì. Insomma, ho lavorato giocava due Antonioni. Anni, mi sono diplomato nell'80, nell'82, ho fatto due anni e poi, mentre andavo in ufficio all'altezza di Piazza della Libertà, ho detto, ma perché mi devo obbligare tutti i giorni ad andare a fare una cosa che non voglio? Già trasmettevo anche in radio, già facevo l'estate in discoteca. E così sono andato dal direttore e mi sono direttamente licenziato. Bel rischio, però. Sì, no. Vabbè, insomma, però insomma, più ho libertà, fatto bene, va. Più libertà. Hai fatto abbastanza bene, devo dire che non credo tu abbia bene. Grandi dubbi. Oddio, magari adesso eri diventato direttore generale come Cantabennato, però ma chi se ne frega, no, meglio non così. Se non ci sarebbe stato il divertimento e soprattutto io ho una grande fortuna, sono un uomo fortunato perché ho trasformato la mia passione, il mio hobby, certo, nel mio mestiere, e questa è la più grande fortuna che un uomo possa avere. E riconoscere questa fortuna, secondo me, è una cosa fondamentale, perché poi spesso... Sì, perché poi ti fa vedere le cose sempre da questo punto di vista e quindi ti fa ringraziare ogni mattina che stai facendo quello che ti piace. Quindi senti, non ti arrabbi, non tutto è relativo, insomma. Ti lasciamo anche perché i preparativi per Capodanno stanno arrivando. Mi date un gingolino. La ricetta di Carlo Conti. Come l'ho detta? Ecco. Abbastanza radiofonico? Dovrei dire la ricetta io. No, una cosa che ti viene bene o che ti piace tanto fare. Proprio allora, dunque, prendi una mozzarella. Sì. La togli dall'involucro. prendi il prosciutto crudo netto e lo metti accanto alla mozzarella e prosciutto crudo. Questo è il piatto che, specialmente quando ero single, era il mio piatto forte. Buono, fra l'altro, Daniele o un Parma, se la mozzarella è buona e il prosciutto è buono, siamo messi benissimo. No, oppure ancora meglio, guarda, una fetta di pane e olio sopra, pane e olio, meraviglioso. Vogliamo metterci anche il pomodoro, strusciamo, come si dice in Toscana, il pomodoro sul pane e olio, meraviglioso. Fantastico. Si sa da 10, da 10. Ecco, questo lo so fare, qualcosa di più, insomma, no. Però ecco, so fare il pesce al sale, per esempio. Sto specializzando, orata al sale, ci arrivo a farla. Bene. Auguri, buon anno, tante lenticchie, ma grazie, soprattutto voi, tanto divertimento. Tanta felicità e soprattutto a tutti, ascoltatori, a voi, vi auguro la salute che è prima, unica, grande ricchezza. Esatto. E tanta cucina. Esatto, sì, perché poi insomma se c'è la salute la cucina te la godi, ovviamente. Grazie a Carlo Conti, sempre bello sentirti, e, insomma, uno dei maestri della televisione italiana, ma mi piace soprattutto questo spirito allegro, giocoso, divertente, perché poi credo che questa cosa chi fa questo mestiere la trasferisca, tutti no? Tutti i mestieri, anche nella cucina. Assolutamente. La gioia. E la ricetta, la vogliamo cominciare a impaginare questa ricetta? Vai, aspetta, allora. Datemi un foglio che devo aiuto! Vai! Facile, ho già accennato qualcosa prima. Puoi scegliere un legume che vuoi, una cicerchia, come dicevo prima. Un cecio. Vai, prendo il cecio. Oppure un fagiolo. Io prendo il cecio. Li cuociamo. Datemi un cecio. Sì, cuociamo il cecio. Li passiamo al settaccio, vuol dire non frullarli. Okay. Un piccolo settaccio da cucina, vengono schiacciati e ti viene una purea. Ah, bene. Questa mi piace. Purea è nel frattempo si è intiepidita. Aggiungi un goccio di olio extravergine d'oliva. Io utilizzerei un ligure. Poi un pochettino di sale, una macinata di pepe. E tieni questa tua farcia da parte. Nel frattempo prepari una pasta di acqua e farina senza uova. Ci sei? Sì. Tiriamo questa pasta e facciamo dei ravioli. Mm. Decidi tu la forma, del plin, cappelletti, ravioli, tortelli, qualsiasi forma. Poi li cuociamo in un po' di acqua bollente salata e li serviamo con un filo di burro abbrustolito, nocciola direi, quindi leggermente cotto, e una foglia di salvia che soffrigge dentro, che quando la appoggi sul tuo raviolo... Ma io non ho capito, abbiamo fatto il ripieno il ripieno con le cicerchie o il legume Poi tu questa è la ricetta di quel posto a Capri della signora sì, però Carolina. L'abbiamo modificata e secondo me è fattibile, è assolutamente fattibile per chiunque, quindi potranno prendere questa spunto. È veramente una grande idea, cioè quindi è l'idea di fare un raviolo o un plin o quello che è, ripieno non di carne ma di legume. Ma di legume, che è assolutamente delicato, e poi non siamo attaccati come al solito alla carne, quindi per i nostri pranzi o cene importanti potremmo utilizzare. Per gli amici vegetariani, per gli amici riduzionisti. Anche vegani, perché non abbiamo messo uova, quindi è solamente per chi magari mangia la carne ma ama anche i legumi e mangia. Beh, mi piace, poi mi sembra anche facile, spero di averlo capito, spero di non fare grandi cazzate quando dovrò, però no, mi sembra facile, l'ho capito questo concetto. Senti, qual è il segreto delle zuppe? C'è una regola, un consiglio da dare? Ma il consiglio che io do per tutte le zuppe un po' più moderne potrebbe essere quello di tener buono, se vuoi, un piccolo soffritto all'inizio, cucinare direi tre quarti dei legumi che devo cucinare, quindi cuocerli molto bene, frullarli totalmente, passarli a un piccolo chinoise, a un piccolo setaccio, in maniera tale che si possa ottenere questa vellutata, e a parte avrei cucinato dei fagioli o anche lì dei legumi, mantenendoli leggermente al dente. Uh-huh. Ok, scolandoli perfetti, sbucciandoli e aggiungendoli a questa vellutata, così si hanno i pezzi interi che sono gradevoli, certo, nella masticazione, e poi si ha la vellutata che prende quello della la parte sapore più gustosa del piatto. E dal gusto che poi dà in sapore. Ogni legume, io direi che il tocco, siccome è un prodotto basico, il tocco dell'acidità, che possa essere aceto, che possa essere un bergamotto, che possa essere chinotto, che possa essere un agrume, ci sta molto bene, dalla buccia al succo balsamico, che è più acidulo, anche un tocco di balsamico leggermente dolce ci può star bene, che gli dà un po' di acido. Quindi il segreto è proprio quello di fare la vellutata e una parte molto croccante a parte sbucciata. Sei pronto per gli essere soldani? Sei pronto? Pronto, prontissimo, tra poco, andiamo. Tra poco. Soundcheck, il suono della musica di Gigi D'Alessio. L'appuntamento con la prova del suono è il sabato e la domenica a partire dalle 19:15 in collegamento con il Groove Master Studio per un pieno di grande musica, la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presento. Mangia come parli. Allora, chi mi conosce sa che oggi sto proprio godendo, perché non lo so, sarà stato quel cannavacciuolo lì che mi ha parato subito la pizza al metro, sarà stato Carlo Conti col l'uccelletto, pesce, il fagioli, l'uccelletto, sarà stato il legume che mi fa impazzire. Io proprio oggi mi sta piacendo. Poche ore a Capodanno e magari, chissà, qualcuno degli USS Soldani sarà... Io non riesco a dirlo, SOS Oldani. Sarà proprio di tema Capodanno? Forse no, vediamo. Eccoli, SOS Oldani. Allora partiamo da Riccardo da Roma. Riccardo da Roma, eccolo. Buongiorno chef, questo è davvero un SOS. Ho invitato a cena una ragazza e ho forse un po' esagerato sulle mie doti in cucina. Mi consiglia un piatto pop per fare bella figura? Grazie davvero. Grande, così ci piacete. Belli, chissà chi gli avrà detto. Difatti, io prenderei un ingrediente di stagione, se fossero in estate, un bel pomodoro, un cuore di bue, un pochettino di mozzarella, e inverno andrei a cercare... Che fa questo povero Cristo? Che gli facciamo fare? Ti stava anche chiamando, è squillato il telefono, facciamo Radio Verità. Questo secondo me era Riccardo da Roma che ti stava chiamando. Direi a questo punto una zucca cotta intera, poi svuotata leggermente, una buona mozzarella o stracciatella direi, e una macinata di pepe nero o pepe in grano. Fa una grande figura. Fai proprio figo. E direi che hai risolto ogni problema. Poi sul resto, Riccardo, poi te la devi giocare tu. Resta magari all'inizio un goccio di vino, giusto per intontire un po'. Del resto, nel senso della seduzione. Romina da Verona. Buongiorno chef, lei che ha stampato in 3D il suo piatto più famoso, ovvero riso e zafferano, cosa ne pensa del risotto in pentola a pressione? Grazie mille. Ma il tuo piatto più famoso non è la cipolla caramellata? Sì, ma anche questa prova che abbiamo fatto in 3D è stata molto curiosa, però naturalmente poi abbandonata perché abbiamo bisogno di masticare il 3D, si utilizzano pure. Però devo dire che la pentola a pressione è un prodotto da rivalutare perché aiuta ad accorciare i tempi di cottura del, nel caso del riso o della verdura o anche delle carni, e quindi mantenere ancora più normale e più naturale il gusto dei prodotti, quindi assolutamente sì per la pentola a pressione. Stefano da Lodi. Ciao a tutti, vorrei sapere del sedano rapa, come si può cucinare, con cosa si abbina, di che cosa sa esattamente, cioè di sedano o di rapa? Cioè, che razza di verdura è il sedano rapa? Proprio non ci dormo la notte. Sedano rapa è un incrocio, ha un profumo di sedano e quindi anche di rapa, perché non è una pianta ma è appunto una radice, e questo sedano rapa è assolutamente utilizzabile come una purea. Al posto di fare una purea di patate si può fare una purea di sedano rapa, o altrimenti il piatto più classico, mi viene da dire, un'insalata di mela cruda, sedano rapa crudo tagliato finemente con un po' di basilico e dell'olio d'oliva. Molto bene. Diamo il benvenuto a Luca Bianchini, che è già al telefono con noi, scrittore, conduttore, sex symbol, possiamo dirlo, Bianchini? Sono soprattutto un sex symbol. Esatto. Ciao Luca. Ma noi qui solo sex symbol. Ciao, ragazzi. Oggi abbiamo avuto Carlo Conti, Cannavacciuolo, poi vabbè, io ovviamente, anche il Dani, un bel ragazzo, tutto sommato. Luca, che rapporto hai col cibo? Lo diciamo a quei quattro che non lo sapessero. Tu sei scrittore, conduttore radiofonico, circa un anno fa è uscito Nessuno Come Noi, che era uno spaccato divertente e molto interessante, no? Delle diverse Torino, delle diverse aree sociodemografiche della città di Torino, i ricchi della collina, i meno privilegiati della periferia torinese. Non svegliamo altro perché magari qualcuno lo leggerà ancora, deve ancora leggerlo. Che rapporto hai col cibo? A me piace tutto del cibo, tutto, dalla spesa al consumo, a parte, vabbè, la bilancia finale, chi se ne frega, però per il resto mi piace tutto, mi piace prepararlo, mi piace assaggiarlo, mi piace offrirlo, condividerlo, mi piace anche mangiare da solo. Diciamo che tutte le attività sportive che faccio, cioè che in realtà si riducono al nuoto e camminata veloce, avendo io un'età, sono tutte finalizzate al poter mangiare. Certo. Perché io faccio sport, se perdo un chilo dico che figata stasera, c'è proprio carboidrati alla sera. Oh, sì. Grande. Sì. Sì, carboidrati alla sera, buon tempo si spera, veramente è un detto straordinario. Se ti dicessimo legumi invece, una tua ricetta, una tua idea sul legume, un ricordo d'infanzia piuttosto che uno attuale. Allora, i legumi, devo dirvi che è una cosa, ad esempio adesso ho scoperto, però non so se sono legumi, ma secondo me sì, i lupini. Sì. I lupini sono un legume, cioè una di quelle cose che noi sottovalutiamo, no? Ed è uno snack, ad esempio, io ho avuto anche una rubrica di benessere per un sacco di tempo, quindi mi piacevano queste cose. Il lupino abbassa l'indice glicemico ed è un ottimo snack, così se ti devo dire una cosa dell'ultimo minuto, se no io adoro i ceci in qualsiasi forma, anche, vabbè, ma che poi voglio dire, costa un po' che fai bella figura. No, allora senti, visto che ami i ceci, rimani in linea perché abbiamo il jingle della ricetta. Oh, la ricetta che abbiamo preparato. Oddio, dove è finito il foglio? Ho perso Ce l'hai qua, guarda, lo vedo io. No, questo è un altro, no, l'avevo scritto dietro. Però me lo ricordo, guarda, oggi andrò senza foglio. Allora, la ricetta di oggi è una meravigliosa alternativa rispetto alla pasta ripiena con la carne, perché noi siamo partiti dai ceci che ho scelto io proprio come legume di partenza. Trovato il foglio, ecco, però non riesco a leggere la mia calligrafia, quindi siamo messi molto bene. Li passiamo a un setaccio. Luca, puoi aiutarlo? Un raviolo di legumi. Raviolo di legumi è difficile. No, come lo sarebbe? Senti, fidatevi ragazzi, la passiamo al setaccio, viene fuori una specie di purea. Ma come li cuoci i legumi? E li cuocio. Come? Con l'acqua, il allora, fuoco. Spieghiamo, sennò. Come li cuoce? Con lo Spirito Santo? Li cuocio, Un po' di. Poi a questo punto faccio questa purea tiepida e aggiungo un goccio d'olio extravergine oliva. Io e Carlo Conti ci mettiamo quello toscano, mentre invece Oldani mette quello ligure. Io metterei pure quello pugliese, devo dire, mi piace molto. Va bene, a quel punto ci mettiamo sale e pepe e abbiamo quindi tutta questa nostra farcitura che lasciamo da una parte a riposare. Nel frattempo con acqua e farina facciamo una pasta. Io faccio il plin in onore anche del nostro ospite che è piemontese. Il plin è proprio e quindi viene fuori questo ravioli al plin che vado a riempire con questa farcitura e a questo punto acqua bollente e quando poi devo condire metterò del burro della nocciola. Burro nocciola, leggermente più cotto. Burro nocciola, burro e nocciola. Io pensavo burro e nocciola. No. Quando tu cuoci il burro un po' più in là con la temperatura. Prende un profumo fantastico di nocciola. Burro, nocciola e ovviamente salvia. Ed è una forma alternativa del raviolo, insomma, senza carne. Salvia e buonasera. La salvia va messa nel burro che frigge leggermente e rimane croccante. Poi salvia, tu la appoggi sui ravioli. Ma è ovvio, però dai, il raviolo burro e salvia ci sta, un classico della tradizione, però ne abbiamo inserito i ceci. Ti piace? Cosa Luca? Dici, Luca? Mi piace, però tu la fai tanto facile a parole, ma io già al ripieno mi sarei imballato. Lo so, ma cioè, con acqua e farina e raviolo, cioè bellissima sta ricetta. Senza può uova. Fare tutto con tre parole. Grazie maestro, ci risentiamo presto. Grazie Luca. I legumi, io sono con voi e con i legumi. Lottiamo. No passaran. I legumi vivono. Ciao, Luca, e lottano insieme a noi. Adesso siamo per ascoltare un brano che ha fatto la storia del rock. È una canzone, è un po' di scarica come scelta perché è dedicata al primo giorno dell'anno ed è stata pubblicata dagli U2 il primo gennaio del 1983. È una canzone di festa e di ribellione ed è ovviamente New Year's Day. All is quiet. Questa è una canzone che nasce come una dichiarazione d'amore di Bono alla moglie, ma che in realtà Solidarność, il mitico movimento sindacale di Valuesa in Polonia, prese come inno, insomma una canzone ovviamente che sa di libertà, 35 anni fa ma ancora estremamente attuale. Consiglio antispreco, Oldani? Consiglio antispreco, io direi di cucinare anche qui in questo caso poco cotechino e poche lenticchie, perché se riscaldano poi il legume il giorno dopo diventa la fermentazione molto improbabile. Niente, approfitta che se n'è andato Cannavacciuolo, sennò gli dava una bella pacca sulla spalla, diceva no, se rimane. Bene, mi piace però, perché poi io so che Oldani, a parte che insomma io da Oldani ci vado a cena quando posso e godo come un riccio, e godo riccio, sì, penso di sì, e però insomma i consigli che ci dà sono consigli che fanno bene e che ci portano soprattutto a guardare la qualità e il benessere fondamentale. Beh, direi che ci siamo, facciamo gli auguri, perché insomma domani sera è una serata speciale, mi raccomando, buon anno e ci vediamo nel 2018. E che sia 2018. L'anno di Mangia come parli. Ma sì, mangia ma che come sia parli. L'anno in cui continuiamo a mangiare, divertirci e a volerci bene. Ciao! Ciao!